Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. Anche questa settimana due progetti che mettiamo a confronto, due progetti che chiedono il vostro aiuto, idee originali che vogliono il finanziamento dal basso, e quindi abbiamo bisogno dei giurati, degli ascoltatori per scegliere il progetto vincitore. Quindi Spartak da Rimini, buongiorno intanto. Pronto? Pronto, l'ho sentito. Eccolo qua. Eri in linea già da un po', volevi intervenire e raccontarci qualcosa anche sul resto della puntata prima di fare Crowd Me Up. Spartak, cosa volevi dirci? Sì, volevo dire, ho capito benissimo la preoccupazione del sindaco là di Madrid, perché sì, con l'arrivo della calda stagione qua sono dei guai seri, allora gli do molto ragione da quel punto di vista. Invece io volevo dire, la cosa che mi dà fastidio a me, oppure anche tanta gente, penso, facendo un mestiere che guido il camion, vedo che in giro ci sono tanti comuni in Italia che hanno ristretto le carreggiate per far spazio alle piste ciclabili, che puntualmente non vengono rispettate dai ciclisti che spesso e volentieri stanno in coppia a parlare, oppure se ne fregano. Ho capito benissimo, Spartak, che il tuo problema è il disastro. Quando si fanno le piste ciclabili, poi i ciclisti non ci vanno sopra, allora c'è meno spazio per strada e i ciclisti che sono in mezzo alle scatole. Questo è vero. Quindi tu inviti in qualche modo all'obbligatorietà del ciclista sulla ciclabile. Certo. Se esistono, perché non usufruirli, Beh, è un invito che comunque ha una sua fondatezza. Caro Spartak, resta in linea. Tra poco ti chiediamo di giudicare i due progetti di crowdfunding. Conosciamo anche Marco da Piacenza. Allora, va Marco, benvenuto. Pronto? Buongiorno. Eccolo qua, Marco. Cosa volevi intervenire? No, va bene. Era interessante prima il discorso sull'obbligatorietà dei vaccini. Sì. Sulla cosa invece leggera è far chiudere tutti i finestrini, così non buttano le cartacce dal finestrino. Quindi tu invito a tenere chiusi i finestrini. Vedete che l'elenco delle assurdità è lunghissimo, e quindi insomma, si potrebbe vietare la qualunque. Guarda, ti leggo un messaggino che dice: multerei chi parcheggia l'auto occupando un posto e mezzo, oppure storto, mi nasconderei dietro le siepi pure di beccarli. Benissimo, però adesso è il momento di conoscere i due progetti scelti dalla piattaforma di Appela che oggi mettiamo a confronto. Vai con il primo. Allora, si chiama Solidarietà a Chilometro Zero, nella campagna di Camaiore, siamo in provincia di Lucca, la cooperativa Mille Fiori impiega 10 ragazzi speciali che coltivano ortaggi, producono olio e miele di qualità. La cooperativa vorrebbe distribuire gratuitamente questi prodotti al banco alimentare e alla casa di riposo locale, ma per mettere in atto il progetto servono 4.000 euro. Per questo è nata la campagna Solidarietà a Chilometro Zero che trovate su Appela. Ce ne parla Valeriano Salvini della cooperativa Mille Fiori. Benvenuto, Valeriano. Buongiorno. Eccolo qua. Un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché sostenere questo progetto. Allora, come avete già detto voi, la cooperativa Mille Fiori chiede di partecipare a questo progetto di agricoltura sociale con questi 10 ragazzi speciali che lavorano con noi i campi, con fatica, con sudore e tutto quanto, e nei campi della nostra fattoria. E la fattoria è una fattoria del 1800 con diversi campi che sono stati incolti per tanto tempo, e ora stiamo lavorando piano piano, stiamo restituendo alla collettività in pratica tutto questo patrimonio. Ecco, donare questa parte del nostro lavoro lo facciamo già da diversi anni, e così vogliamo incrementare questa cosa, vogliamo donare sistematicamente e settimanalmente questi prodotti freschi al Banco Alimentare, alla Casa di Riposo. Banco Alimentare di Camaiore ha circa 60-70 persone che quindicinalmente prendono famiglie. No, persone, giustamente mi diceva, collaboratori, famiglie che usufruiscono di questo servizio che viene offerto dalla parrocchia. I prodotti freschi mancano, manca l'olio, manca il miele, mancano le uova, manca la verdura soprattutto, e manca anche questo nostro modo di essere insieme con loro continuamente. Valeriano, perché avete scelto di ricorrere al crowdfunding? Voglio chiederti, non c'è un sostegno da parte delle istituzioni alla vostra iniziativa? Noi abbiamo diversi benefattori, ma quello che è specifico su questa cosa qui, sì. No, non c'è nessuno, non c'è né comune, né parrocchia, né niente, né, nessuno si è mai preoccupato più di tanto di questa realtà. Quindi mai come in questi casi chiedere esatto. L'aiuto. È necessario chiedere aiuto anche a persone lontane che non conoscono la nostra realtà. Benissimo, allora... Ottimo. Ascoltatori, giurati, rimanete concentrati, vi presentiamo il secondo progetto di oggi. Si tratta di una cosa molto diversa, si chiama My Protection, è un progetto che mira a diffondere capillarmente i defibrillatori in una particolare zona d'Italia che è la Valle di Susa, formando anche le persone comuni che poi dovranno utilizzarlo in caso di emergenza. Raccogliendo almeno 2.200 euro si può contribuire all'acquisto e all'installazione di una postazione salvavita e anche alla formazione di persone in grado di utilizzarla. Ci racconta tutto Michele Belmondo della Croce Rossa Italiana di Susa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. È chiaro che questo è un progetto molto locale, ma la questione della diffusione dei defibrillatori vale per tutta Italia e in particolare probabilmente le persone della Valle di Susa. Ma poi chiunque può andare, certo, in Valle di Susa e averne bisogno. Assolutamente. Un minuto di tempo, Michele, anche a te per spiegare come e perché sostenere questo progetto My Protection. Esatto, allora la Croce Rossa richiede il supporto di tutti, di tutta la comunità sulla piattaforma Eppela per portare avanti il progetto My Protection. Come giustamente avete detto, questo progetto ha l'obiettivo di lottare contro la morte cardiaca improvvisa. Per raggiungere questo obiettivo sono importanti due azioni, l'una legata all'altra, cioè la diffusione dei DAE, che sono i defibrillatori automatici esterni, in modo capillare sul territorio, soprattutto su un territorio come questo, che è ricco di paesini, di piccole borgate montane, che spesso sono difficili da raggiungere da parte dei soccorritori, del soccorso organizzato, e poi la formazione della popolazione al loro utilizzo. È infatti importante sapere che non è necessario essere dei sanitari per utilizzare questo tipo di apparecchi, sono utilizzabili, il defibrillatore è utilizzabile da tutti, è sufficiente un piccolo corso di formazione della durata di 4 ore che ci abilita all'utilizzo di questo apparecchio salvavita. Quindi il nostro è anche un obiettivo, come dire, culturale, per far percepire appunto il defibrillatore come un presidio salvavita importantissimo, un po' come un estintore, no? Per un problema di antincendio, qua per un problema ancora più importante di salute è importante, certo, utilizzare il defibrillatore e saperlo utilizzare correttamente. Allora, Michele, hai utilizzato tutto il tempo a disposizione, adesso è il momento invece dei nostri ascoltatori giurati di decidere quale dei due progetti li ha convinti di più. Cominciamo con Spartak da Rimini. Spartak? Sì, ci sono. Sono tutti e due dei progetti nobili, sinceramente. Però io opto per il secondo progetto perché in Italia siamo un po' indietro da questo punto di vista. Dal punto di vista dei defibrillatori? Sì. Benissimo. Quindi io opto per l'opzione 2, dai. Ok, My Protection, il primo voto va a My Protection. Sentiamo se Marco da Piacenza si allinea oppure se vuole ribaltare a favore delle persone speciali, 10 ragazzi disabili che lavorano alla cooperativa Mille Fiori, che offre poi regala i prodotti al Banco Alimentare. Marco, che dici? È difficile la scelta perché, come diceva l'altro grato, sono tutte e due cose bellissime. Cose bellissime, molto diverse tra loro, sì, è vero. Molto diverse, anche a me un po' in crisi, pensare a questi ragazzi speciali che lavorano e danno loro, invece di essere aiutati, danno una mano, sì, alle persone bisognose. Sicché io sono un po' più sensibile, più vicino al primo progetto. Ecco va bene. Allora abbiamo un ex aequo perché il secondo voto, quello di Marco, va sulle tacche con 0. Quindi bravi, tutti e due progetti. Siamo felicissimi, certo, anche nell'exequo, tanto come diciamo, sì, sempre, in realtà non è che c'è un progetto che vince e uno che perde, quindi nessuno dei due progetti viene eliminato dal portale di Eppela, ma li ritroverete entrambi e potete finanziare quello che vi piace di più. E trovate anche tutti i dettagli anche sul sito di Radio 24, la pagina di Si Può Fare, quella di Crowd Me Up, grazie a Michele Belmondo di My Protection e Valerio Salvini di Solidarietà Chilometro Zero. Noi ci fermiamo, 3492386666 800240024, dopo il traffico siamo di nuovo qua. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.